Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. 8 settembre 1943. Dai microfoni dell'EIAR di Roma, il maresciallo Pietro Badoglio ha appena annunciato la fine della Seconda Guerra Mondiale, proclamando la resa incondizionata dell'Italia, una nazione ormai ridotta allo stremo delle forze. Per molti, la fine di un incubo. Per altri, l'inizio di un momento storico in cui dover rispondere delle proprie azioni. Nella confusione della guerra civile che divide in due l'Italia, i fedelissimi al Duce si riuniscono nei pressi di Salò, sul lago di Garda, dove viene fondata la Repubblica Sociale Italiana, uno stato dalla vita breve e che vive senza un riconoscimento ufficiale da parte delle nazioni estere. Salò diventa il punto di raccolta di tutti coloro che restano fedeli a Mussolini. D'altra parte, sulle montagne, i partigiani organizzano la liberazione dei territori degli ex alleati tedeschi e combattono mantenendosi in collegamento con l'esercito americano che, sbarcato in Sicilia, risale lo stivale mettendo in fuga i panzer nazisti. Questa situazione dura quasi da 2 anni e sono molti i soldati italiani che vengono fatti prigionieri e identificati dagli americani. Ecco perché si rende subito necessaria l'esigenza di creare dei centri di raccolta in cui smistare i prigionieri di guerra. Questi campi non hanno niente a che fare con i campi di concentramento tedeschi, però in sostanza risultano essere delle vere e proprie prigioni in cui si ritrovano uomini sconfitti e amareggiati da come sono andate le sorti della guerra. Uno di questi campi si trova a Coltano, nei pressi di Pisa, dove si ritrovano ex soldati della Repubblica Sociale Italiana e collaborazionisti dell'esercito tedesco di varie nazionalità. La vita nei campi di concentramento assume degli aspetti che la fanno somigliare alla normale vita di un paese. C'è il gruppo degli artigiani, che svolgono le loro piccole attività come fossero tornati alle loro botteghe. C'è il gruppo dei letterati, che discutono di filosofia e di politica, alla ricerca dei meriti e dei torti dei vincitori e dei vinti. C'è infine il gruppo dei giullari, che raccoglie coloro che hanno voglia, malgrado tutto, di ricominciare a sorridere alla vita e sul palco di piccoli spettacoli improvvisati si occupano di risollevare il morale degli altri prigionieri. Ignobile plebaglia, ritiratevi, dimostratevi uomini e domani Roma rinascerà più bella e più superba che Pria. Bravo! Grazie. È piaciuta questa parola, Pria? Ora glielo ridico. Più bella è più superba che prima. Bravo, grazie. Più bella e più superba che prima. Bravo, grazie. A Coltano si ritrovano componenti di una inesistente compagnia teatrale, alcuni giovani e brillanti attori e commedianti che sono destinati a diventare esponenti di spicco del teatro e della commedia italiana. C'è Walter Anichiarico, conosciuto al grande pubblico come Walter Chiari, Enrico Maria Salerno, Luciano Salce, il giornalista Enrico Ameri. In questo gruppo di ragazzi c'è poi anche un giovane alto e dinoccolato che spicca tra gli altri per i suoi capelli biondi e il suo aspetto elegante, tali da farlo sembrare un lord inglese. Un uomo destinato a far sorridere milioni di italiani per molti e molti anni. Il suo nome è Raimondo Vianello. Raimondo Vianello. Allora, signori, effetto luce, prego, questa è una cosa che abbiamo studiato, Benissimo. Adesso vi dicevo, vi farò vedere come e perché è nata questa trasmissione fin dall'inizio. Ma lei mi deve seguire con il riflettore mentre parlo, no? E che sta dormendo? Sorbiente. E lei se deve rivolgere ai tecnici con urbanesimo. Ma quale urbanesimo? Se quello non sa fare il suo dovere, cacciatelo ma via. Ma no, lei queste cose non le può dire. Ma io lo faccio, il mio dovere esigo che anche gli altri lo facciano, guarda un po'. E poi questo è un effetto che abbiamo provato. E vabbè, mo rifamo, vedrà che viene bene. A Sandro, cerca di seguirlo bene, sino a questo. Come questo qui, no? No, questo effetto non vi è bene, ecco. La maschera del giullare si addice più a un figlio del popolo che a un giovane rampollo dell'alta borghesia. Eppure né il padre Guido, ammiraglio della Regia Marina e al comando della prestigiosa Accademia Navale di Pola, né la madre Virginia, discendente dei marchesi Accoretti, di antica famiglia maceratese, riescono ad allontanare il loro quarto figlio Raimondo dalle luci della ribalta. Vianello infatti si laurea in giurisprudenza, più che altro per dovere nei riguardi della famiglia, ma nutre un amore segreto verso il mondo dello spettacolo, della rivista, che lo affascina giorno dopo giorno. Quando viene catturato e portato a Coltano, non ha ancora iniziato la sua carriera e neanche immagina di diventare una star della rivista. A lui piace osservare il mondo ad occhi socchiusi per vedere quegli aspetti che alla maggior parte delle persone passano inosservati, ma che gli permettono di esprimere sempre qualche irriverente e simpatico giudizio. Buonasera a tutti. Sì. Senti, io le voglio chiedere una cosa. Sì. Da molto tempo, almeno 2 giorni. Sì. Posso chiedergliela? Dica, dica. Oh, è molto comunque gentile. Sandro. Zitta, non parliamo di... Qui è tardi, dobbiamo andare avanti, il programma ha i suoi tempi. Chi è Sandra? Sandra, tu non la conosci perché sei straniera, beata te. Beata te. Raimondo Vianello ha un aspetto molto elegante, quasi regale, e non è mai sopra le righe. Non si arrabbia, non urla, non ride in modo sguaiato. Riesce sempre a stare nell'ombra, eppure ogni sua parola, ogni suo giudizio è una sentenza a cui nessuno riesce a controbattere. L'ironia con cui riesce a raccontare la realtà piace a tutti, e così in poco tempo si guadagna la stima dei suoi compagni di prigionia. A Cremona, nel cuore della pianura padana, dei ragazzini stanno giocando in un campo. Ci si diverte con poco, basta una palla, quando la si ha. E se invece la palla non c'è, ci si inventa dei giochi con quello che si ha a disposizione. E così un bastone diventa una spada per giocare ai moschettieri, un albero diventa un nascondiglio segreto per scappare dai draghi, e un foulard diventa l'abito da sposa di una splendida principessa. Bisogna inventare, e in questo i bambini sono speciali. In questo gruppo poi ce n'è uno in particolare che ha un'immaginazione più sviluppata degli altri. Inventa storie e personaggi sempre diversi e gli piace trasformarsi per interpretare il ruolo del protagonista. A Cremona c'è tornato dopo aver trascorso l'infanzia in giro per l'Italia, seguendo il padre, ispettore di una società di assicurazioni. Ormai 14enne, è arrivato il momento di iniziare a lavorare per dare una mano in casa. E c'è un posto da operaio nel vicino salumificio Negroni. Le stelle sono tante, milioni di milioni, la stella di Negroni. Negroni! Vuol dire qualità! Il lavoro al salumificio non è un granché. A questo ragazzino la stella della Negroni ricorda più le stelle del cinema o quelle che in qualche rara occasione riesce a vedere nella rivista durante lo spettacolo del sabato pomeriggio. Lo affascina questo mondo pieno di paillette e ballerine, così come è attirato dal mondo del teatro. Ecco perché entra subito a far parte della compagnia filodrammatica del dopolavoro aziendale. Non immagina ancora che il teatro e il cinema saranno parte integrante della sua vita. Il suo nome è Ugo Tognazzi. Ugo Tognazzi. Il proprietario di un salumificio di Cremona a spingere il nostro verso il palcoscenico. Ugo Tognazzi fece il suo debutto nella filodrammatica aziendale. Così Tognazzi si racconta a Sanremo, simulando il suo necrologio davanti a un pubblico divertito. Perché Ugo ha questa dote incredibile di raccontare stupidaggini e situazioni senza senso con una serietà da oratore esperto. Una dote che in più di un'occasione gli concede il lusso di affrontare con ironia situazioni anche difficili. Ho pensato subito a questa cosa dell'attore, non lo so, perché andavo così da solo a vedermi gli spettacoli, gli amaspettacoli, le riviste a Cremona. Mi divertivo a scopiazzare certe battute, certe barzellette che poi ripetevo. Ugo è un acuto osservatore, non solo dei comici che vuole imitare. In lui cresce la passione per la recitazione che lo accompagna per tutta la vita. La mia vocazione nasce dal fatto che da ragazzo volevo, come si dice, uscire dal gregge assolutamente, perché ero circondato dai figli dei ferrovieri che erano tutti studenti, abitavano in questo caseggiato popolare dove abitavo io. L'arte di arrangiarsi smuove l'intraprendenza di Ugo Tognazzi, che trova anche un finanziatore per il suo primo spettacolo. Certo, non è il massimo che si possa pretendere. Si tratta infatti della locale impresa di pompe funebri, che ovviamente mette a disposizione per l'allestimento scenico la materia prima di cui dispone. E, insomma, poche parole, le scale erano fatte con le casse da morto. Esatto. E i tendaggi erano fatti con quei seten che normalmente si mettono all'interno o per fare i cuscini dei defunti. Esatto. Quindi noi, questo tutto primo balletto, spettacolo di rivista organizzato, avevamo balletto, avevamo amiche tutto, cantanti, sì, eccetera, ma eravamo tutti vestiti o in bianco o in viola o in nero. La guerra interrompe temporaneamente la carriera teatrale di Tognazzi, che combatte per difendere il re e Mussolini. Ma questo suo impegno nei confronti della patria non è così convinto come invece lo è per Raimondo Vianello, che, forte anche di aver ricevuto un'educazione paterna di stile militare, rimane fedele ai suoi doveri anche nel momento della prigionia a Coltano. E a Coltano finisce anche Tognazzi, dove rimane per un breve periodo, giusto il tempo per conoscere alcuni suoi compagni di prigionia e guardare con un occhio critico e con delle punte di cinismo la disfatta di un paese allo sbando, schiacciato tra le violenze dei nazisti in fuga e l'umiliazione della resa agli americani. Ancora una volta, l'umorismo di Tognazzi prevale sulla disperazione. E così, nel campo di concentramento, il giovane attore trova il tempo di organizzare qualche piccolo spettacolo. Tognazzi e Vianello a Coltano si incontrano di sfuggita, quasi si sfiorano, ma si nutrono delle stesse sensazioni di cui ognuno di loro fa tesoro per la propria formazione teatrale. Il cinismo con cui gli occhi di questi due giovani osservano la realtà della prigionia diventa un bagaglio di esperienze per raccontare tante piccole storie, tanti piccoli personaggi. Gente comune piena di sfumature e difetti, da caratterizzare e modellare in protagonisti di sketch e battute esilaranti. Da questo tronco lei insomma ricava... Da questo troncio io ricavo... Da questo tronco lei ricava uno... No, prego, scusi, per servirla. Da questo troncio io ricavo... Fisicamente... Guardi che si dice tronco, vabbè, comunque... Voi altri, la pianura, ma le altri qua, il caricolo, chiamo troncio... Finisce la guerra e finisce anche la prigionia per i giovani Tognazzi e Vianello, che tornano alle rispettive vite segnati nel profondo dall'esperienza della prigionia, pronti però ad affrontare la ricostruzione con l'ottimismo che in quel periodo accomuna tutti gli italiani. Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. L'Italia del dopoguerra è una nazione che vuole rinascere, che vuole lasciarsi alle spalle gli orrori della guerra. È sicuramente un periodo di grande fervore culturale, in cui il cinema, il teatro, ogni aspetto della cultura vive un'età dell'oro. La gente lentamente riacquista la voglia di uscire, di andare a teatro a vedere le grandi riviste di Garinei e Giovannini e l'inconfondibile discesa dalle scale di Wanda Osiris. Ed è proprio nella compagnia di Wanda Osiris che Raimondo Vianello trova la sua prima scrittura, che lo introduce nel mondo del teatro. Per caso, come lui stesso racconta a Bontalloro, nel salotto di Maurizio Costanzo. La mia mancanza di visione perché non c'è vocazione. Io non è che l'ho scelto, non è stata una scelta. Mi sono trovato un giorno in un teatro così, perché un comune amico mi ha portato lì, mi ha detto avevo bisogno di un tipo alto, magro, biondo, che facesse un ufficiale americano in questa rivista, e hanno preso me. Dopodiché l'unica parte che fu tagliata fu quella, andava andata in onda quando fu. Però hai continuato. Cioè, sincera, però ho continuato, non mi lamento, intendiamo, sono felice. Però non c'è vocazione, il famoso sacro fuoco del palcoscenico, io non l'ho avuto. Il 1950 è l'anno dell'esordio a fianco di Walter Chiari nei Cadetti di Guascogna, un film che avvicina Vianello al mondo del cinema, dove peraltro non lascia una traccia di spessore. Infatti Raimondo Vianello raffina maggiormente quegli aspetti della recitazione che lo rendono più adatto alla rivista e al teatro leggero, fatto di battute pungenti e scenette divertenti. Il suo stile diventa un biglietto da visita per affrontare un pubblico che non si aspetta che da tanta eleganza possano scaturire battute esilaranti, capaci talvolta di sconfinare nel cinismo. Proprio questa sua maggiore attitudine alla rivista viene notata da Giulio Scarnicci e Franco Tarabusi, due brillanti autori fiorentini che negli anni 50 riscuotono un notevole successo con alcuni spettacoli teatrali. A loro appartengono molti successi dell'epoca, musicati da un'altra coppia che ha fatto la storia della rivista italiana, Bracchi e Danzi. Proprio nella compagnia di Dove vai se il cavallo non ce l'hai si ritrovano Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi, che si accorgono ben presto di avere molte cose in comune. Tra queste, una in particolare che riaccende ricordi recenti e sensazioni non ancora dimenticate: Coltano e il suo campo di concentramento. E ancora una volta Tognazzi a raccontare in stile necrologio il suo incontro con Vianello. Accanto a lui in questo periodo c'è un giovane attore biondo di tipo anglosassone, Raimondo Vianello. Tognazzi e Vianello iniziano a recitare insieme sul palco e giorno dopo giorno si accorgono di avere un affiatamento particolare che li trasforma in una vera e propria coppia comica, come Stanlio e Ollio, come Gianni e Pinotto. Ognuno dei due sostiene le battute dell'altro ed entrambi sono aiutati dagli ottimi testi di Scarnicci e Tarabusi, in una collaborazione destinata a continuare per anni. La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono: ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma. La RAI, il 3 gennaio del 1954, inizia ufficialmente a trasmettere i suoi programmi. In Italia è l'inizio di una rivoluzione culturale i cui effetti possiamo osservare ancora oggi. La gente comincia a trovarsi nelle case e nei bar dei pochi fortunati che possiedono un televisore e condividono momenti che aiutano lo sviluppo sociale del paese. La RAI offre un palinsesto rivolto a una popolazione che ha bisogno di istruzione, informazione, ma anche divertimento. E quindi porta in scena una serie di programmi da cui escono i maggiori talenti comici dell'epoca. Viva la RAI, fa crescere strani. Viva la RAI, viva la RAI, quanti geni lavorano solo per noi. Viva la RAI, con il suo impero dice la RAI, soltanto il vero. Viva la RAI, dimmi da quale parte stai. Viva la RAI, se sarai buono il tuo Mazinga vedrai. Destini incrociati. Destini incrociati oggi ripercorre il primo periodo di trasmissioni della RAI, attraverso la carriera di due grandi attori comici che insieme hanno formato una coppia perfetta, Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi. Agli albori della TV, Tognazzi intuisce l'importanza di questo nuovo mezzo di comunicazione di massa e quando appare dinanzi alle telecamere fa un grande successo. Nel lontano 1954, dammi una mano sulle date, per favore. Dunque, sì, no, se cominciamo col teatro. Sì. Cioè, il nostro cominciamo incontro, col teatro, cioè. Il nostro incontro è avvenuto nel 1951-52, stagione 51-52. Ti vada quattro, fumo chiamati dalla televisione a presentare l'1-2-3, che era uno spettacolo di numeri, di varietà. Questo spettacolo di varietà attraverso le nostre prevaricazioni, perché cominciamo a allargarci, diventò praticamente poi uno spettacolo nostro. Ma ti senti bene? Dopo aver trascorso 5 anni pieni di successi negli spettacoli teatrali di Bracchi e Danzi, l'ormai solido duo Tognazzi-Vianello approda alla televisione, convinti che sia il mezzo più appropriato per consolidare il loro successo. Accanto a loro, la coppia di autori Scarnicci e Tarabusi, che scrivono la maggior parte degli sketch del programma 1-2-3, che in poco tempo diventa una delle trasmissioni più popolari dell'epoca. È stato il primo varietà televisivo che ha insegnato tutto a tutti, nel senso che nei primi esperimenti anche di quello che voleva dire fare satire in televisione, quindi prendere in giro la televisione stessa. Ricky Tognazzi racconta nel film Ritratto di mio padre, diretto dalla sorella Maria Sole, alcuni aneddoti su questa famosa trasmissione. Raccontava che una volta iniziarono lo spettacolo e erano venuti tutti i dirigenti della RAI e allora Vianello e Tognazzi dissero: oggi facciamo un esperimento particolare, e insomma coprirono le prime tre file, quelle con i dirigenti RAI, con un telo bianco e li lasciarono lì sotto praticamente per tutto lo spettacolo. L'irriverenza, ecco la chiave del successo tanto inseguita. La capacità di non prendersi sul serio mai, in nessuna occasione, e di avere la voglia e il coraggio di osare cose che nessun altro ha mai fatto prima. L'aver avuto a che fare prima con i tedeschi e poi con gli americani, in un periodo in cui c'è l'incertezza di arrivare vivi al mattino successivo, porta il duo Tognazzi-Vianello a esplorare qualsiasi argomento, affrontando con coraggio il rischio della censura. Io avevo il televisore, mi ero comprato nel 54 da sportivo per vedere i campionati del mondo di calcio in Svizzera. E allora lui era ancora... Senza televisore. Senza casa proprio. No, senza... sì. Sì. Ora, il lavoro qual era? Non era tanto d'autore quanto spiegare a lui, che non aveva la televisione e non vedeva gli altri programmi, che personaggi doveva parodiare e come. E lui faceva le parodie senza personaggi che non avevo visto. La capacità di inventare l'imitazione di un personaggio famoso comunque mai visto è un rischio che solo due giovani attori con un grande affiatamento possono assumersi, il tutto guarnito con una certa dose di pazzia. Facendo la parodia degli spettacoli televisivi e logicamente essendo sempre noi due soli a farle dovevamo anche fare le parti femminili e allora quando c'era una donna longilinea toccava a me di fare la parodia, se era invece un po' sanguigna, tracchiata, la faceva Ugo. Rimangono celebri nella storia della televisione gli sketch della Mondina e la Mondana, piuttosto che il medico e l'onorevole, personaggi che prendono in giro una società nel pieno del boom economico e trovano un pubblico che apprezza una comicità di qualità. Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello vivono un grande successo nel varietà 1-2-3, un programma di musica, sketch e satira televisiva che rappresenta uno dei più grandi successi della televisione italiana. Alla fine del 1959 la coppia è famosissima e ha modo di cavalcare l'onda del successo anche in altre forme di spettacolo diverse dalla televisione, come ci racconta Ricky Tognazzi. Come succede anche oggi, la televisione portò al grande successo popolare. Sia papà che Vianello erano anni che scavalcavano le montagne facendo la rivista, però con la televisione il grande successo popolare è il cinema. I film cosiddetti estivi, no? Credo che ci fu un anno che ne fece 15 con Vianello. Sono film con poche pretese e scarso valore cinematografico, girati esclusivamente per riempire il vuoto che il pubblico della coppia sente quando la trasmissione subisce la consueta interruzione estiva della normale programmazione. Però lui non... No, avevamo fatto dei film insieme, sì, che certo. Però ti dirò che per l'epoca, considerato tutto, rivedendoli erano proprio brutti. Eppure, come spesso accade nei migliori film comici, proprio nel momento di maggior successo della trasmissione, accade un fatto che cambia in un attimo le sorti di 1-2-3. Venne in visita in Italia il presidente francese, allora era De Gaulle, fu ricevuto da Gronchi, andarono, non mi ricordo a quale teatro, se alla Scala o all'Opera, alla Scala di Milano, furono eseguiti i Lini Nazionali, loro due avevano preso posto nel Palco Reale, chiamava così il Palco Reale, si chiama così ancora. Sì, si chiamano così ancora, e sull'attenti hanno seguito l'esecuzione degli inni, poi terminata la Marsigliese, terminato l'inno italiano, si sono seduti e mentre De Gaulle ha trovato la sedia, la poltrona, Gronchi non la trovò. Perché gli aveva tolta Merzagora. Sì, gli aveva spostata e sparì dietro il parapetto. Ecco, noi logicamente, vista questa cosa, il giorno dopo andavamo in trasmissione, abbiamo fatto un accenno alla cosa, ci siamo fatti trovare in piedi anziché seduti a un tavolo, lui è caduto per terra quando siamo dovuti sedere. Tu e hai detto, io ti ho detto chi ti credi di essere, e io ti ho risposto tutti possono cadere, tutti possono cadere. Ma e a questo sottile. Punto abbiamo chiuso l'avventura con la Rai. Oggi siamo abituati a ben altro genere di battute sui capi di Stato e le loro debolezze. Eppure, alla fine degli anni 50, con una Repubblica che non ha ancora 15 anni di vita, prendere in giro il Presidente è un oltraggio che non può passare inosservato. Lo scandalo è tale che la RAI fa trovare la sera stessa nei camerini della coppia le lettere di licenziamento e cancella dopo 67 puntate la trasmissione, mettendo per così dire in quarantena i beniamini del pubblico televisivo, ai quali non resta altro che cercare nuovi progetti e nuovi compagni di avventura. Ci siamo mai divisi. Ci siamo mai divisi. Anche perché non siamo mai stati sposati. Ma davvero che sono stato io, quando abbiamo fatto il federale, che sai che avevamo molte pressioni, ti ricordi? Sì. Perché l'altra parte la facesse Vianello, è un film di due uomini, no? Questo dialogo tra Ugo Tognazzi e Luciano Salce ricorda il primo progetto cinematografico di Tognazzi senza il suo compagno Raimondo. Un film diverso dai filmetti a basso costo fatti fino a quel momento, che segna invece la svolta nella carriera cinematografica di Tognazzi. Intanto il nostro riceve inaspettatamente una chiamata. È il Fascio questa volta a chiamarlo. Dopo un faticoso e travagliante viaggio diventa il federale. Mentre Ugo Tognazzi insegue la sua carriera cinematografica, Raimondo Vianello inizia a lavorare in coppia con un'altra persona che ha conosciuto proprio un anno prima. Una donna, Minuta, di cui si innamora e che sposa nel 1962. Una donna a cui rimane unito tutta la vita e con la quale crea una delle più celebri coppie comiche della televisione italiana. Sandra Mondaini. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati viviamo la storia di due grandi attori della commedia italiana, dal cui incontro è nata una delle più famose coppie comiche della televisione, Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi. La chiusura anticipata del programma 1-2-3, a seguito della satira un po' troppo irriguardosa per l'epoca nei confronti del capo dello Stato, segna anche la fine della collaborazione artistica fra Tognazzi e Vianello. Come abbiamo anticipato, Tognazzi gira il film Il Federale, che nella stesura originale avrebbe dovuto offrire una parte da protagonista anche a Vianello. Era intitolato Io e il Federale, il copione originale. Io devo essere io, devo fare quell'onorevole e tu il federale. E tu mi dicesti, guarda, vorrei fare una cosa un po' più seria, lasciamelo fare con altri. Sì, e hai preso Wilson, quell'attore inglese, e io sono stato io. Ma è stata una scelta giusta, oculata e che ha dato dei frutti. Non c'è un accenno di gelosia, di rancore tra questi due amici. Si punzecchiano, si rimproverano, ma in fondo li lega una profonda amicizia. E quando i due si incontrano nuovamente in occasione di qualche trasmissione televisiva, l'intesa comica che li ha tenuti uniti per tanti anni riappare più forte che mai, dando il via a scenette irresistibili. Ma perché Tognazzi adesso, non perché mi sta davanti, Tognazzi è un attore veramente completo. Io posso fare altre cose, ma non certo quelle che fa Tognazzi, che rappresenta la figura dell'italiano mediocre. Meglio. Ma come in ogni canovaccio che si rispetti, quando da parte di uno dei personaggi arriva una provocazione, ecco che subito l'altro risponde con un'altra battuta comica in un botta e risposta continuo e senza vincitore. Facciamo una dichiarazione, non dico ufficiale, ma diciamo la verità. Sì, è anche un po' in relazione a tutto quello che succede nel nostro cinema, eccetera. E anche perché più volte ci è stato riproposto di ritornare in televisione a rifare 1-2-3, cosa che abbiamo rifiutato, credo giustamente sempre, perché a 20 anni, a 25 anni di distanza non si può riproporre una cosa che è anche valida perché fa parte della sua epoca, eccetera, eccetera. Una storia, la storia di me e di Raimondo è una storia di due uomini che hanno due caratteri diversi, di due attori, di un incontro durato diversi anni. E soprattutto dell'incontro di due persone che per un po' di anni hanno divertito, hanno fatto ridere. È un film difficile però, intendiamo. Sì, certo. Nella 50% sua comico e 50% patetico. La parte sua è patetica. Per Ugo Tognazzi inizia il periodo cinematografico durante il quale interpreta personaggi che sono entrati nella storia del cinema italiano. Da Renato Baldi, il protagonista de Il Vizietto, al Conte Mascetti, che condivide con il Perozzi, il Melandri, il Necchi e il Sassaroli le bischerate della saga di Amici miei. Lei ha clacsonato. Tu ha clacsonato? Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un clacson sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Terapia tapioco! Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivare con Pefalina, come antifurto, per esempio. Raimondo Vianello, dopo la separazione da Ugo Tognazzi, si dedica alla rivista, rimanendo però fedele a quella televisione che gli ha regalato il successo. Al suo fianco l'inseparabile moglie Sandra Mondaini, con la quale condivide tante trasmissioni, Attenti a noi due, Tante scuse, di nuovo Tante scuse, fino alla recente Casa Vianello, la sitcom italiana che gioca sui battibecchi tra marito e moglie e che diventa un programma culto al pari degli americani Jeffersons e degli inglesi George e Mildred. Che barba, che noia, che noia, che barba. Io sono qui da sola. Magari quello lì in qualche balera a ballare con qualche... Uno, one, two, three, ta ta ta ta ta ta. Io qui sola, sola. Che noia, che barba, che barba, che noia, che noia. Con chi parlo io adesso? Con chi parlo che non c'è nessuno? Oh, buonanotte, buonanotte, buonanotte. Noia, che barba, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia. In una carriera piena di soddisfazioni c'è anche il tempo per presentare un Festival di Sanremo e per 9 stagioni Pressing, il programma sportivo delle reti Mediaset. Per Vianello, che è anche presidente di una piccola squadra di calcio, la SAMO, dalle iniziali di Sandra Mondaini, è un modo per riunire tutte le sue passioni, la famiglia, il calcio, la televisione. Ben altre passioni sono invece quelle coltivate da Ugo Tognazzi. Una di queste è sicuramente l'amore verso il sesso femminile, vista anche la sua fama di tombeur de femme. Ma c'è un altro aspetto di Tognazzi che è riconosciuto da tutti: la passione per la cucina. Fare della cucina significa per me soprattutto poi dopo sedermi a tavola con degli amici. Creo le premesse di un incontro con delle persone. Io odio la solitudine, ho sempre bisogno di stare con gente, quindi... Quale occasione migliore che una tavolata dove poi gli amici siano anche soddisfatti di essere a tavola con me, al di là dell'interesse che può dare la mia conversazione. E l'occasione è valida anche per prendere ancora una volta in giro un vecchio amico, come ricorda Paolo Villaggio, parlando di quelle che lui stesso definisce le cene degli infami. Esce il primo piatto, mi ricordo in questa serata memorabile, rotazione, mescola, mescola, mescola, mescola, io tiro fuori e leggo... questo cagata, lui era vestito poco come ha detto, ho detto cagata, dico cagata, secondo biglietto, grandissima cagata, terzo biglietto, stop, ha detto lui. Sono passati tanti anni da quando Tognazzi e Vianello, poco più che ventenni, hanno varcato i cancelli del campo di concentramento di Coltano. Da allora molti fatti sono accaduti nella vita di entrambi, ma il filo conduttore che ha unito in modo indissolubile le loro vite è l'ironia. Una dote che permette all'uomo di osare qualsiasi giudizio, di mostrarsi sempre irriverente senza mai infastidire, di giocare con le parole senza essere volgare. Questa dote preziosa i due compagni di prigionia l'hanno trovata e l'hanno coltivata per tutta la loro vita, entrando nelle case degli italiani e chiudendo a doppia mandata le porte dei loro cuori.